noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Quarto Andamento, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e vou estar consigo durante 60 minutos com música clássica, música erudita, a música de todos os tempos. O compositor escolhido para hoje é Giacomo Puccini, compositor que nasceu no ano de 1858 e faleceu em 1924. A primeira obra de Giacomo Puccini que vamos ouvir é La Bohème. Sono in vena. Chi è là? Una donna. Come faccio così? Che viso da malato. Si sente meglio? Sì. Qui c'è tanto freddo, segga vicino al fuoco, aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco, poco. Così. Grazie. Che bella bambina. Ora permetta che accenda il lume, tutto passato. Tanta fretta! Sì. Grazie. Buonasera. Buonasera. Oh, sventata, sventata, la chiave nella stanza, dove l'ho lasciata. Non stia sull'uscio, il lune vacilla al vento. Oddio, torni ad accenderlo. Oddio, anche il mio si è spento. Oh, e la chiave ove sarà? Qui ho pesto. Disgraziato. Ove sarà? Mm-hmm. gelida manina, se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova. messa, ma prego assai, Signor, vivo sola, soletta, là in una bianca cameretta, guardo sui tetti, al ritorno. Curiosa? Dammi il braccio, mia piccina. Obbedisco, signor. Che ora lo sveglio. Tu Si desta, salta, mi cerca. Viene e non mi veda. Oh, rincasate, Mimì, per carità, non fate scene qua. Separarmi da Mimì, se io lo vedo così, già un'altra volta credendo morto il mio cuore, ma di quegli occhi azzurri allo splendor e sarei sorto. Ora il tedio la sorta. Per sempre cambia il metro dei pazzi e la morte tra che lacrime distilla se non ride favilla l'amore piacque rojo tu sei geloso montata collerico, lunatico, imbevuto di pregiudizi, noioso, cocciuto. Ma in quale vive, poveretto? Mimì è ora civetta, che frascheggia con tutti lo scardino di Viscontino e le fallocchio di Trilia. E la sgonnella e scopre la caviglia con un far promettente lusinghier. Lo devo dir, non mi sembri sincer. Ebbene no, non lo son. La mia stanza è una tana squallida. sorride rimorso massale ne cagion del fatale mal che l'uccide. Solitario nero. manido la rondine cinguetta. La mia cuffietta, la mia cuffietta. Vamos continuar ao som de Giacomo Puccini. Agora vamos ficar com a obra Madame Butterfly. É com esta obra que me despeço, prometendo que para a semana trago-lhe mais música clássica. Boa noite. Até para a semana. Thank you. ogni plaga è un facile vangelo d'ogni bella di amor è un facile vangelo che fa la vita vaga ma che intristisce il cor giapponese per 999 anni salvo a prosciogliermi ogni mese è un facile vangelo tutta vestita di cinio, mi piace la treccia tua bruna, fra conti di feri. Sorella dea della luna, la piccola dea della luna, che scende la notte la notte del cielo. E affascina i cuori. Fino ora non hai detto, ancora no. perché non fugga più. Io t'ho ghermita, ti serro palpitante, sei mia. Chi sarò? Chi sarò? E come sarò giunto? Chi dirò? Chi dirò? Chi amerò? Butterfly dalla lontana. Io senza mani scossa me ne starò nascosta. Fanciulla. Dice proprio così? Sì, così dice, ma se ad ogni momento... Taccio, taccio, più nulla. Da quel tempo felice tre anni son passati. Anche lui l'ha contati. E forse Butterfly non mi rammenta più. Non lo rammento, Suzuki, dillo tu. Circospezione prepararla. Poi torno. Al colpo. Quando? Presto, presto. Pennone. Qui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse ritornar più mai? Due cose potrei far: tornar a divertir la gente col cantar. Oh, trapparvi assai mi costa dai miraggi ingannatori, accogliete la proposta di quel ricco Iamadori. Voi, voi, signor, vedete questo? Voi, santo Dio, come si fa? Questo fuoco, questo questo, che sua grazia sedeva. Mi scacciate! Ve ne prego, non esiste! Pinkerton lo sa.